Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Dibattito acceso sul TTIP, l'accordo economico con gli Stati Uniti, ma tra i dossier europei c'è anche il rapporto con la Cina. Pechino chiede all'Europa il riconoscimento dello status di economia di mercato. Gli eurodeputati voteranno giovedì le raccomandazioni, ma già oggi il dibattito. Riconoscere lo status di economia di mercato alla Cina avrebbe conseguenze non sostenibili per l'Europa e la sua industria. Sono state le parole decisamente senza mezzi termini della commissaria per la salute e la sicurezza alimentare Andriukaitis davanti alla plenaria del Parlamento europeo. Il commissario ha affermato che riconoscere lo status di economia di mercato avrebbe costi altissimi in termini di perdita di posti di lavoro e l'Unione europea non sarebbe in grado di reagire alle distorsioni del mercato. Per questo la proposta di Bruxelles è quella di andare avanti con un forte sistema di difesa commerciale. Linea sulla quale si sono allineati i socialisti europei, il capogruppo l'italiano Gianni Pittella. Quello che mi preoccupa francamente è un'invasione sleale dei prodotti cinesi, delle produzioni cinesi nel nostro mercato. Questo è quello che mi preoccupa di più, che metterebbe in crisi la nostra industria. Io non sono per fare guerre alla Cina, assolutamente, sono per riconfermare e alimentare una nostra collaborazione e amicizia con la Cina, ma essere amici non significa che tutto ciò che un amico ti chiede, anche quando non è accettabile, tu lo devi accettare. Essere amici significa, attenzione, voi non siete ancora economia di mercato, quando lo diventerete noi vi riconosceremo lo status. Piano europeo sui migranti alla prova delle urne. Il Parlamento ungherese sfida di nuovo Bruxelles e ha approvato il referendum proposto dal governo sul piano per il reinsediamento dei rifugiati in base ad un sistema di quote. La consultazione è prevista per il prossimo ottobre. Secondo il Premier Viktor Orban, il no al referendum sarà a favore dell'indipendenza dell'Ungheria. Per ora dalla Commissione europea solo un no comment. Ma tema dei migranti ancora sotto i riflettori anche per le indicazioni che arrivano agli Stati. Tutelare chi arriva in Europa non è un reato. Questo è il messaggio chiave nella raccomandazione di politica generale dell'ECRI, l'organismo antidiscriminazione del Consiglio d'Europa rivolto ai governi degli Stati membri. In sostanza si dice chi fornisce cure, un alloggio, istruzione o protegge, assicura i diritti di donne, bambine e uomini presenti irregolarmente sul suo territorio non deve essere punito e non deve essere tenuto a denunciare queste persone alle forze dell'ordine. Intanto c'è anche il fronte Grecia. Il 24 maggio sarà il giorno della svolta. Il premier ellenico Alexis Tsipras, all'indomani dell'Eurogruppo, usa questa mattina toni più che ottimistici prima della riunione del governo ad Atene. La decisione di ieri apre la strada a un alleggerimento del debito e le misure di salvaguardia su cui si è trovato l'accordo a Bruxelles non dovranno necessariamente essere applicate, dice Tsipras. Ottimismo da Atene, qualche dubbio in più a Bruxelles. Bravi, sì, ma con riserva. Per usare un'espressione cara ad alcuni paesi dell'Eurozona, i greci hanno fatto i compiti, 5 miliardi di tagli approvati domenica notte, ma la lista è ancora lunga. Il vertice di ieri non è stato risolutivo e si sapeva. Lo sblocco degli aiuti arriverà nei prossimi giorni, al più tardi il 24 maggio, data fissata per la nuova riunione dell'Eurogruppo. C'è ancora da mettere a punto i dettagli sulle cosiddette misure contingenti, quelle che scatteranno in automatico se Atene non dovesse centrare i target di bilancio. Un avanzo primario dell'1,7% nel 2017 e del 3,5% l'anno successivo. Obiettivi troppo ambiziosi secondo la FMI, che proprio per questo e forse anche in modo provocatorio non solo ha chiesto i tagli preventivi non presenti nell'accordo della scorsa estate, ma ha anche chiesto che siano dettagliati. Una richiesta incostituzionale per Atene, che però è stata costretta a dare una cornice legislativa al meccanismo. Il fondo continua a spingere sulla ristrutturazione del debito in vista ad alcuni e soprattutto a Berlino. Di alleggerimento del debito si è parlato e qualche misura arriverà tra 2 settimane. Revisione degli interessi, forse nuove scadenze. Resta da vedere se Washington le considererà sufficienti per restare al tavolo del negoziato. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo qui, ma noi dell'Europa continuiamo a raccontarvi. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24, vi ricordo, vi aspetta questa sera alle 21 ad Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.